Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a questo quarto e ultimo speciale natalizio di Smart City. Partiamo dalla cronaca, la cronaca del 2016 che è stata contrassegnata, come tutti sapete, da due importanti sequenze sismiche che hanno colpito il centro Italia, che hanno mostrato tutta la vulnerabilità degli edifici italiani a scosse intense, ma direi a volte anche a scosse poco intense, se consideriamo che addirittura ci sono stati dei danneggiamenti a Roma con la seconda importante scossa che ha colpito il centro Italia, a Roma, che però era molto lontana dall'epicentro. E oggi c'è un altro tema, quello della riqualificazione energetica, che sta emergendo. Stiamo partendo con una serie di investimenti sulla riqualificazione energetica degli edifici, ma naturalmente è un problema se noi attacchiamo cappotti o cose di questo genere, edifici che poi rischiano di venire giù ai primi tremori della terra. E allora, insomma, in questa puntata speciale di Smart City vogliamo affrontare il tema dell'adeguamento antisismico e, per quanto possibile, di quelle operazioni che consentono di mettere insieme l'adeguamento sismico e quello energetico. Ci facciamo aiutare in questa prima parte del percorso che faremo questa sera dall'ingegner Paolo Riva, che è professore ordinario di tecnica delle costruzioni presso l'Università degli Studi di Bergamo ed è anche vicepresidente dell'ISI, cioè Ingegneria Sismica Italiana, che è un'associazione che unisce i vari operatori, quindi imprese, progettisti e ricercatori che si occupano di questo tema della sicurezza sismica. Buonasera Riva. Buonasera. Senta, allora partiamo da una distinzione di base tra le varie, diciamo, strategie di difesa possibili, perché questo ci consente un po' di dividerle in almeno un paio di grandi famiglie. Ma quello che noi possiamo pensare sono interventi che portano all'isolamento sismico degli edifici e all'utilizzo di elementi dissipativi, oppure elementi di interventi di rinforzo dove si provvede a rinforzare a tutti gli effetti la struttura senza peraltro introdurre elementi dissipativi. Ecco, cioè sostanzialmente o si aumenta la resistenza del fabbricato alle sollecitazioni del terremoto o si cerca di isolare il fabbricato dal terreno, fare in modo che queste sollecitazioni non arrivino al fabbricato o arrivino molto molto ridotte. Questi sono i due approcci possibili. In buona sostanza. In buona sostanza, sì. Ecco, allora partiamo da quest'ultimo, che è quello anche un po' più tecnologico, no? Questo della dissipazione, lei stava dicendo. Come funziona? Di base si possono utilizzare due tipologie di approcci quando si parla di dissipazione. Nel primo caso si tratta di isolare l'edificio alla base, quindi viene introdotto tra l'edificio e la fondazione un sistema molto deformabile che fa sì che quando il terreno si muove l'edificio praticamente sta fermo, come se fosse su un film molto deformabile. Su un cuscino d'aria. Sotto in realtà ci sono delle cose che possono essere un cuscino d'aria, delle specie di molle. Più delle volte sono dei cuscinetti di gomma oppure degli elementi di acciaio sferici che danno un'oscillazione tipo quella del pendolo. Infatti si chiamano elementi a pendolo scorrevole. Appena sotto a piano terra l'edificio viene tagliato e tra l'impalcato, quindi sotto il piano terra, e la struttura sottostante, quindi diciamo la struttura di fondazione o l'interrato, si introducono gli elementi. Questi smorzanti. Elementi che di fatto, più che smorzanti, questi sono isolatori. Invece lo smorzamento vero e proprio si può fare in un altro modo ancora, cioè senza tagliare l'edificio, ma introducendo degli elementi di controvento, ad esempio a X o di altra forma, che però hanno una grandissima capacità di dissipare energia e l'idea è che siccome il terremoto è un input energetico, se io metto degli elementi in grado di dissipare grandi quantità di energia, la struttura per dissipare l'energia totale del terremoto dovrà esibire degli spostamenti più piccoli. Quindi andando a ridurre l'ampiezza degli spostamenti l'edificio viene automaticamente protetto. Ecco, però da un punto di vista dei costi, sono, mi sembra di capire, interventi abbastanza onerosi. Più che non onerosi sono interventi che si applicano bene a determinate tipologie di edifici e non a altre. Quindi diciamo che un intervento di isolamento alla base

È così? Sono dei veri e propri fusibili in cui si concentra tutto il danno e che poi siano facilmente sostituibili. Possono essere, ad esempio, concentrati nelle connessioni all'edificio, alla base, eccetera. Comunque degli elementi che dopo il sisma non è necessario andare a buttare tutto quello che abbiamo fatto e rifare tutto ex novo, ma ad andare solo questi elementi sacrificali vengono sostituiti. Senta, spesso quando si tratta di trovare i soldi per fare operazioni di riqualificazione edilizia si dice: beh, ma aggiungiamo un piano, lo vendiamo e con quello, con il ricavato, paghiamo tutta l'operazione. In molti casi quelli che sono crollati col terremoto sono proprio stati questi piani aggiuntivi, no? Sì. Qui invece c'è un'opportunità interessante, mi sembra di capire. Sì, assolutamente, perché nel momento in cui si va a creare un esoscheletro al di fuori dell'edificio esistente, si va a creare una struttura esterna, quindi questa struttura esterna può anche andare a essere dimensionata per supportare ad esempio un piano aggiuntivo, oltre che quelle aree, diciamo, di ballatoi che abbiamo detto. Quindi tutti questi carichi aggiuntivi possono essere presi in carico dalla nuova struttura, quindi questo potrebbe essere una grandissima potenzialità per andare poi a rientrare dell'intervento sfruttando questi nuovi spazi abitativi che sono venuti a creare. Quello che stiamo dicendo è che paradossalmente proprio l'intervento sismico potrebbe essere l'elemento che rende sostenibile la riqualificazione energetica, mentre abbiamo sempre ragionato semmai al contrario. Non è detto, insomma, era un elemento di riflessione in più. Va bene, grazie Passoni, grazie Marini. Grazie a lei, la ringrazio, buonasera. Va bene, con questo è davvero tutto, si fermano qui i nostri speciali Smart City di Natale, ce ne andiamo anche noi un pochettino in vacanza, ci risentiamo il 9 gennaio alla ripresa regolare delle trasmissioni. Da Maurizio Meris, buone feste.